cominciato proprio con la radio e il doppiaggio. Doppiavo i film porno all'inizio, 35 anni fa. Era... Ti piace? Ti piace? Dimmelo che ci piace. No, era così, ma una cosa... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È una serata triste per me, perché mi devo congedare da ascoltatore della zanzara. Ma perché una volta mi divertivo. Perché un programma condotto con sagacia, con molta intelligenza, però ultimamente il livello è troppo basso. Non ce la faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto. Che orrore! A proposito di orrori, senti questa battuta eccezionale di Grillo su Gasparri. A un certo punto si avvicina uno e gli chiede: ma che ne pensa di quello che ha detto Gasparri? Che ne pensa delle dichiarazioni che ha fatto Gasparri su questa non cosa? Seguo di Gasparri dal 55. No. No, ma riascoltiamo bene perché Grillo, quando fa queste battute, è eccezionale. Ma certo. Che ne pensa delle dichiarazioni che ha fatto Gasparri su questa non cosa? Non seguo di... Gasparri dal 55. No. Sul mercato dei senatori. Senta, ma sulla compravendita dei senatori? Facciamo un prezzo al chilo, perché bisogna fare delle aste, quindi mettere un prezzo al chilo. Poi ancora una volta resta su questa roba della rete, la squadra di governo la decidiamo in rete. Basta, basta con questa storia della rete, non ne posso più. Faremo il programma che, se nel caso andassimo alle elezioni, noi parleremo di programma di governo. Vi presenterete la squadra di governo? Magari la squadra sarà decisa poi col voto in rete, ma sui programmi parleremo solo di programmi. La rete, basta. Ma con certo, la certo, anche no, in Germania. No, in Germania no. In Germania, in Germania no. La Volkswagen, no, tutto no. In rete viene fatto. No, non è vero. Gli idrocarburi vengono inquinati dalla rete. No. Con un click. No. Una macchina, non serve più guidare la macchina, serve l'iPad. No, sali no, sull'iPad no. E lo guidi con l'iPad, lo fanno ovunque. Non è vero, non ovunque è vero. Ormai. Non è vero, non in Germania è vero. Lo fanno, evidente. No, non è vero, non squadra lo fanno. Di governo così www.beppegrillo.it, entri nel sito, decidi chi vuoi senatore, questo qui, lo voti e va, e non va, rimane a casa, non serve il Senato, tutto nella rete. No, dai, basta, online. Ma non era finita questa storia della rete. No, è tornata, non è mai finita. Voi dite che, perché voi siete morti, voi siete finiti. Salvini e le mignotte. La tassazione della prostituzione stasera sì. È legge in Svizzera, in Austria, in Germania, in Olanda, in Belgio. Sì. Nei paesi sviluppati le mignotte non stanno in mezzo a una strada senza nessun controllo igienico, fiscale o sanitario, ma stanno in posti controllati, finanziati, puliti. Quindi... Spettacolare sgarbi sulla Merkel, la Volkswagen e Berlusconi. Cosa c'entrano? Sentite. Ma questa deve continuare a stare lì? Cioè, quello si è dimesso perché la Boccassini era turbata di quattro ragazze e questa qui sta lì, ride, non ride più. Non cade la Merkel, non cade, perché lei non ha fatto niente di grave, non ha mica fatto niente, non ha avuto rapporti sessuali con nessuno, si presume. Ma in compenso, come dice il giornale, la Merkel ha inquinato mezzo mondo. Dice, no, non ha inquinato lei, ha inquinato la Volkswagen. Come dire che la Fiat non è un'azienda di Stato, è un'azienda casuale che passa per l'Italia. Ma il suo modello culturale è il Conte Mascetti di Amici Miei. Io che conosco benissimo Berlusconi, lui vive come il Conte Mascetti. Il suo unico obiettivo, non dirò quale sia, ma certo non è la Merkel, insomma si tratta di un altro mondo. Poi su Monti, non capisco perché su Monti, bah. Non incriminato, ma sputtanato in tutta Europa, si è dovuto dimettere ed è arrivato l'anti-Berlusconi, il signor Monti. Uno lo vede proprio uno che in vita sua una ne ha vista e una ne ha presa. Cioè, stava parlando di donne, eh? Una sì, ne ha vista e una chiaro, ne ha presa. Chiaro che non fossero le macchine, cioè. Ora, c'era un prete, non mi ricordo in quale trasmissione, un tale che si chiama Don Larizza, contro gli immigrati. No, contro gli immigrati. Sigalini ho sentito. No, ma anche Don Larizza. Senti questo Don Larizza, senti. I poveri che arrivano da noi, i cosiddetti poveri, sono tutti giovani, tutti ben piazzati, tutti sistemati, conoscono il wifi. No. Noi stiamo portando in Italia persone che non hanno titolo di rimanere, perché chi scappa dalla guerra ben venga, chi scappa da situazioni disastrose ben venga, ma chi viene alla ricerca dell'Eden non ha i titoli per rimanere in Italia. I profughi sono pochissimi, gli immigrati sono tantissimi. Eccoci qui, 800 24 00 24. Leggo su un giornale, Parenzo, leggo su un giornale che hanno deciso a Roma di licenziare non so quanti, 40, 37, 50 dipendenti e dirigenti della società delle pulizie che si chiama AMA, perché sarebbero stati assunti in maniera irregolare, soprattutto perché raccomandati. Molto allora, bene. Al di là della... No, molto bene non lo so. Ah, ma adesso sei contro il licenziamento? No, io sono contro il licenziamento fatti da Parentopoli, diciamo. No, ma il problema è che secondo questo criterio, cioè quello della raccomandazione, bisognerebbe licenziare mezza Italia. Ma che c'è? Ci vanno mezza prove. Italia, cioè mezza Italia raccomandata, mezza Italia da cacciare. Cioè, solamente quelli assunti dalle Manno? Vogliamo vedere quelli assunti dalle amministrazioni precedenti? Ma che c'entra? Magari hanno, che fatto quelle i titoli. Hanno fatto le cose un po' più a modo. No, diciamo, in regola, no? Semplicemente. No, hanno fatto le cose a modo. Le cose in regola o non in regola, eh? Sì, ho capito, ma lascia perdere. No, mi dispiace, le assunzioni... però lascia perdere. No, tutto lì le assunzioni punto. Clientelari c'erano prima, ci sono state, cioè non è che le ha inventate alle Manno. Però magari qualcuno è più furbo e le fa in regola, cioè magari mette qualcuno ecco, con i titoli. Ecco. No, ma è chiaro che sono di nomina, no? Però magari qualcuno è più furbo e le fa con i titoli, altri sono meno furbi e piazzano la nipote di l'ex, l'amante ma di è uguale, che non ha i titoli. È uguale. Beh, ma non è uguale. È uguale. Contro Salvini Romano, ma chi è ancora Romano? Chi è quello siciliano? Romano ex di... no. Saverio Romano, chi è? No, Romano, Andrea Romano. Andrea Romano del PD. Di sciolta civica, sì. No, è del PD. Ex sciolta civica, passato con PD, naturalmente. Andrea Romano contro Salvini, senti. Guarda che li affonderanno i barconi vuoti, informati. Quelli vuoti? Ma voi volevate affondarli con la gente dentro. Voi no, volevate dai, affondarli. Ma non dire cazzate, sì, vabbè, dai. Ma cioè, l'hai detto anche mi appello al fact checking. Come fai? Ma ti vergogni? No, cioè vergogno, io volevo affondare i barconi con la gente dentro. Io mi ricordo perfettamente cosa avete detto voi. Che io voglio affondare i barconi voi con la gente dentro. Ma io ti querelo. Voi avete parlato di affondare i barconi. Ma fai polemica, dammi dell'imbecille ma non darmi dell'assassino. I barconi vuoti. Ma sta facendo scalpore in questi minuti, a proposito sempre della vicenda della Mecca e dei morti musulmani che andavano a pregare in pellegrinaggio, quello che volete, una cosa barbarica. Come secondo me volete. Già il pellegrinaggio, fare sette giri intorno a quell'affare lì, una roba, ma che da, te ne frega una te, roba scusa. Da fuori di testa completamente. Già quella è una follia medievale. Ma una follia per in te. Più muoiono e l'Arabia Saudita se ne fotte. Ecco, questo è il problema dell'Arabia Saudita. Sta facendo discutere una cosa che ha scritto Feltri, che è questo: occorre moltiplicare i pellegrinaggi alla Mecca. Vittorio, buonasera. Eccomi qua, buonasera a tutti. Allora, caro, ecco. Perché bisogna moltiplicare i pellegrinaggi? viaggio alla Mecca? Ma molto semplice, è una questione matematica. Cioè? Se tu organizzi un pellegrinaggio all'anno e ci vanno 3 milioni di persone, sì, se ne organizzi 10 ci vanno 300.000 persone e non muore nessuno. E gli imbecilli che hanno travisato il mio, come si chiama, tweet, evidentemente, sì, non sono capaci neanche di fare i conti elementari di aritmetica. Cioè, tu vuoi dire che scrivendo occorre moltiplicare i pellegrinaggi alla Mecca, tu non volevi dire più pellegrinaggi ci sono e più morti ci sono? Ma io sto a quello che ho scritto. Se tu moltiplichi i pellegrinaggi, evidentemente tu diminuisci il numero delle persone che vanno alla Mecca e pertanto non accadono più incidenti micidiali come quello di cui stiamo discutendo. Ma ci vuole tanto a capire. Cioè, lui dice si diluiscono. Ci vuole il supporto di un insegnante di matematica, non credo, no? Sì, però la cosa è un po' ambigua, perché in realtà quando si presta uno un po' alle cose. Esatto, quando diciamo uno scrive. Però adesso che l'ha spiegata, effettivamente uno poi la interpreta come vuole. Esatto. Ti assicuro che a me non me ne frega assolutamente nulla. Quello l'ho capito, ma l'interpretazione autentica di Feltre è questa: fatene di più, così si diluiscono i pellegrini. Più si pellegrinaggi, diluiscono, meno morti, tu dici. Ovvio, no? Scusa, se tu fai un pellegrinaggio all'anno e ci vanno 3 milioni di persone, è fatale, ogni anno accadono incidenti micidiali. Se invece tu organizzi 10 pellegrinaggi, è evidente che quei 3 milioni li suddividi, li dividi, certo, per 10, e a casa mia fanno 300.000. Non so, dico, se magari sbaglio, ma non no, credo. No, ma ho capito benissimo, siccome molti hanno interpretato questa cosa qui. Sì, ma certo, ma è evidente, c'è sempre qualcuno in malafede che pensa sempre male, sì, che non riesce neanche a leggere un tweet, non riesce a fare certo, un conto. Ha ragione, anche perché insomma, su queste cose non si può scherzare, ha ragione. Senti, ma tu faresti un pellegrinaggio alla Mecca? Me ne guarderei bene, anche perché io, essendo agnostico, non lo dico volentieri agnostico, preferisco dire ateo, perché agnostico sembra che abbia una malattia della pelle, no? Però io come agnostico è chiaro che mi guardo con stupore queste manifestazioni, queste cose che sono l'esaltazione di ciò che non si vede, che non c'è, e quindi quando la religione è interpretata in modo bigotto, sì, succedono delle cose inspiegabili. Cioè, tu ti devi purificare. Ma tu, siccome questi casi ci vanno per purificarsi, vabbè, no? Ma sono dei poveracci, lasciamoli andare, io mica li voglio fermare. No, perché arrangino, però sarò padrone di dire che li guardo con stupore, perché non riesco a capire dove sia un minimo di razionalità nel fare non esiste, queste cose. Non esiste, perché nella religione c'è sempre un pizzico di fondamentalismo. Vabbè, non c'è fondamentalismo, altro che pizzico, un pizzicottone. Sì, fermi sì, tutti, che c'è il traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Del tweet autentica, sì, cattivissimo di Feltre, questo. Guardate, io ovviamente ci credo, però leggo anche le reazioni ed è evidente che quando uno scrive occorre moltiplicare i pellegrinaggi alla Mecca intende una sola cosa. Poi Feltre ha scritto un libro sull'Islam, eccetera eccetera, intende, capisce, 300 morti, se ci fossero più pellegrinaggi, anche perché non è detto che diluire i pellegrinaggi significa meno morti. Più pellegrinaggi ci sono e più si schiacciano come animali. Non penso che quei signori lì, quei 3 milioni, se ci fossero 10 pellegrinaggi andrebbero tutti e 10. Questo solamente uno stupido lo può pensare, scusa, non voglio insultare te. Poi in ogni caso ognuno interpreta come vuole. No, beh, certo. C'è gente che ti scrive fai umanamente schifo, un altro. Ma figurati se mi stupisco di queste cose, lasciamoglielo dire, io non mica mi impressiono per queste sciocchezze. Dico, se il tweet viene interpretato così dalla stragrande maggioranza di coloro che lo leggono, la cosa mi lascia nella più totale indifferenza. Comunque, secondo te senza Islam saremo tutti meglio? Ma su questo credo che non vi siano dubbi. Ma no, Islam, senza l'Islam, quello politico, io. Radicale, quello che taglia le gole. Ma ci sono tanti islamici che vivono serenamente qui, che fanno, lo mangiano il kebab, fanno le loro cerimonie, e bene. Non fanno mai una manifestazione per protestare contro quelli che tanto buoni non sono. Non mi risulta che l'indomani di attentati micidiali i musulmani bravi facciano delle sfilate per protestare contro i confratelli che ne combinano di tutti i colori, quindi non vedo questo, io una grande non vedendo questo mi viene il sospetto che tutto sommato siano anche abbastanza d'accordo, quantomeno non si oppongano i buoni ai cattivi. Però, in effetti i cattivi continuano a prosperare e i buoni invece stanno zitti. Cioè, di fronte a queste alla morte di ieri di tutte queste persone alla Mecca, non mi sembra che tu ti sei stupito molto. Ma no, ma è già successo anche in passato. Io ricordo, cioè, ricordo non ti sei messo a piangere 30 anni fa, ma no, beh, non vedo proprio, perché uno poi ci va volontariamente, li sa benissimo a quali rischi va incontro, ma ci vanno lo stesso per una sorta di esaltazione, come dicevo prima, che li spinge a fare queste manifestazioni che hanno diciamo così un contenuto di follia. Ma sì, dai, ma è una follia, tutte le religioni, tutte le religioni contengono una follia. Ma bell'amor, non c'è nulla di razionale, andiamo, almeno quello me lo consentirete. No, Parenzo, quello che è successo ieri è come l'AISL allo stadio, è come ho detto ci sono stati altri casi di assembramenti di quel tipo la partita della Juve giocata in Belgio nell'86. Ma non c'entra nulla, ma sei pazzo, 36 morti, a parte che era l'85. No, 85. No, per dire che l'Arabia Saudita, cioè quel governo che ci piace tanto niente, perché compra i grattacieli a Milano, cioè i soldini dell'emiro lì, dell'emiro arabo, ci piacciono quando ci comprano i grandi grattacieli. Siccome hanno gestito male non l'ordine pubblico, ma quella massa di pellegrini, ma lo fanno apposta. Questo io dico e basta. Poi ognuno ha diritto di fare il pellegrinaggio a Compostela, può andare in pellegrinaggio dalle prostitute in Svizzera come fai tu. Ma certo, ma è giusto, ma mica devo piangere io. Poi se ma vabbè, questo è un altro discorso. Quando 3 milioni di persone si mobilitano in quella maniera con uno spirito che francamente non ha un gran senso per noi, e poi succedono gli incidenti ed è tutto normale, e mai non viene proprio questa angoscia, perché penso al posto loro sarei rimasto a casa. Ma sì, dai, allora io voglio capire una cosa: perché vuoi i leoni al Colosseo insieme ai sindacalisti e ai dipendenti del Colosseo, ai custodi? Beh, sarebbe più divertente. Vogliamo fare le assemblee al Colosseo, benissimo, ma non facciamo mancare i leoni, che è la loro casa. Le assemblee sindacali al Colosseo, quelle dei giornalisti bisogna introdurre anche le tigri, così c'è più varietà. Non mi sembra che ti piacciano molto le assemblee sindacali, molto, anche perché non hanno mai portato nulla di buono, hanno solo recato svantaggi ai lavoratori, tant'è che siamo qui a piangere perché non ci sono più neanche i posti di lavoro. Cari lavoratori del Colosseo, la prossima volta, suggerisce Vittorio Felti, se volete fare un'assemblea, una riunione, benissimo, anche dentro il Colosseo. Dentro con i leoni. A presto, Giornale Radio, ciao Vittorio. Arrivederci. Che ne pensa delle dichiarazioni che ha fatto Gasparri su questa Gasparri dal 55. No. Scienza delle donne per cambiare il pianeta è il tema della 16ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario internazionale della Fondazione Bellisario. 20 relatrici provenienti da tutto il mondo e 300 tra imprenditrici, manager e professioniste si confronteranno a Milano venerdì 2 ottobre alle 15 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e sabato 3 ottobre alle 10 in Expo Padiglione Italia. Non perdere l'appuntamento con la leadership femminile. Per accreditarsi, info@fondazionebellisario.org. Tutti i sabati con voi in diretta a questo Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffei, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, tutti i sabati alle 10 e alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Vogliamo dirle una cosa, caro David, cioè le parole che il Papa spende e che sono naturalmente diffuse urbi e torbi da tutti i telegiornali del mondo al congresso americano, insomma in questo viaggio, sì, eccetera, ma... eccetera, basta, abusi e usura verso i paesi poveri, lavoro per tutti, sembra la Camusso, terra e lavoro per tutti, più o meno, dai, no. Le cose sull'ambiente, a parte che sono cose assolutamente normali, e oserei dire anche piuttosto banali. Beh, piuttosto vedi caso banali. Volkswagen, normale. Sì, insomma. Piuttosto banali. Ma ce ne dimenticheremo e tutti se ne dimenticheranno un secondo dopo la fine di questo viaggio. Cioè, non ti ricordi allora una frase inutile, di un viaggio. È tutto inutile, esattamente. Cioè, non cambia niente. I viaggi non si dovrebbero fare più. Bisognerebbe ma sono fare dei simboli. Bisognerebbe sono delle fare cose delle cose via Skype. Comunità, adesso faccio il grillino. Basta viaggi. Pazzesco. Basta inquinamento. Anche il Papa è inquinato, allora. Anche il Papa è inquinato con gli aerei. Anche il Papa è inquinato. Basta viaggi. No, basta viaggi. Tutti incontri via Skype. Ma allora anche i capi tutti di Stato non dovrebbero andare. Non c'è serve. Quella storica stretta di mano tra Obama e Fidel Castro. Cioè, ma ragazzi, ma di che parliamo? Tutto via Skype. La politica è fatta anche di grandi gesti, tutto di incontri, via di umanità. Skype. Ma tutto che Skype? Via Skype. Si risparmia. Allora non ci rompessero i coglioni sull'inquinamento, su questa roba qui. Ma perché come inquinano anche loro? Nero. Certo, come no, inquina comunque. A me non me ne frega niente, però inquina. Facciano tutti come il presidente, l'ottimo presidente o ex presidente lì dell'Uruguay, no? Mujica, eccetera. Boh, c'è mica un punto di riferimento. I governanti quindi devono essere poveri, poveri in canna, dei poveracci, dei miserabili devono essere i governanti, dei miserabili, vivere con pochi euro, con la poche pira, lire. La pira, come tu sai, la pira, signor la pira, la pira no, la pira no, amico signor mio, la pira, non voglio sentire il nome di la pira. Una persona poverissima. Non me ne frega niente il nome di la pira, sai ti prego. La pira, no? La pira, certo, ma non, allora, non voglio sentire il nome di la pira. Diciamolo il nome di la pira, no. Perché i camionisti devono sapere, lo sanno perfettamente chi è la pira. Giovanni da Firenze, 800 24 00 24. La pira. Aspetta un attimo, aspetta, ti sei perso questa settimana, ti sei perso quando non c'eri, per la cosa ebraica, vabbè, le solite robe, ti sei perso il signor Sergio Berlato, amico mio, te lo sei perso. Un momento, Berlato era un assessore? No, Berlato era uno di Forza Italia al Parlamento Europeo, se non ricordo male. Adesso sì, è passato ad Alleanza Nazionale. Cosa ha fatto? No, a Manganelli, come chiami tu, no? Manganelli d'Italia, Alleanza Nazionale, sì, è capogruppo in Veneto, è consigliere regionale in Veneto. E cosa ha fatto la Volpe? Ha detto Berlato che ha una pistola in mano, una beretta, ma sentiamo, se te lo faccio sentire così ti incazzi un po', ti incazzi un po'. Io ero d'accordissimo con Berlato, d'accordissimo. Sei la persona che viene ad aggredirmi in casa, sì, e quindi mi mette nelle condizioni di dover difendere me, la mia famiglia. E quindi se gli sparo un colpo, sì, per dire, no? Sì, sì, per dire. E non riesco ad ammazzarlo al primo colpo, per dire, no? Se lui insiste nel voler portare avanti il suo intento criminale, io gli sparo di nuovo fino a che l'ho messo nelle condizioni di non nuocere a me e alla mia famiglia. Però hai una buona mira. Ho una mira molto buona. Nel caso in cui io fossi aggredito in casa mia da criminali armati, vabbè, che mettono a repentaglio l'incolumità mia o dei miei familiari, io ho detto che spero che non vengano più di 13 alla volta, perché siccome la mia beretta 9x21 ha 15 colpi, vorrei tenermi due colpi per finire i feriti nel caso in cui ce ne siano. Non credo ce ne siano, perché è una buona mira. E dove si spara per uccidere? Ma cosa serve? Aspetta, sta roba? Dato che ha una c'è buona mira. C'è stupidaggine. Aspetta, aspetta. Detta da un politico, a cosa serve? Dato che ha una buona mira, senti a intimidire dove... che cosa? Senti dove si spara. Messaggio lancia. Lo vuoi sapere dove si spara sta per volpe ammazzare? Aspetta, senti, senti, ce lo dice Berlato, Per uccidere qualcuno, per essere sicuri, dove si spara? Per essere sicuri, per uccidere qualcuno, bisogna sparare a un bersaglio che sia vulnerabile e quindi si sa che si spara a bersaglio grosso. Cioè dove? O in fronte o in mezzo al torace, e lì è molto probabile che il colpo possa fermare l'aggressore. Capito? capito Parenzo? Capito? Ci voleva Berlato per sapere questa roba. Mi dico, mi meraviglio che un politico che ora ricopre anche un ruolo istituzionale si metta a spiegare nei dettagli, sì, ma alla radio, in televisione o sui giornali o dove ma vuole, come si spara, cioè vabbè, ti dà l'idea della classe politica. Comunque, ma sì, ti dà l'idea delle cose, Giovanni, no? Della Firenze, follia, eravamo dai. Con Giovanni, vai Giovanni, vai. Poi a cosa serve sta roba qua? Vai Giovanni, vai. Fare un po' di propaganda. Mi riferisco alla trasmissione di ieri dove si è parlato dei 700 morti alla Mecca. Ecco, io non condivido e anzi mi sembra censurabile l'atteggiamento di Parenzo. Sì, ma come stai Giovanni? Stai col viva voce, amico mio. Pronto? No, no, sono in un'aula, forse... Dimmi, vai. Attacciavo lei e le Santanchè di insultare, detto, beh, sì, questa parola l'ha ripetuta 40 o 50 volte. Ma che insultare? Certo, ma quale insultare una religione? Ma quale insultare una religione? Una roba milioni di persone. Una roba medievale. Insulti milioni di persone. Ma che insulto? Certo che le insulti. Ma a parte che tu istighi alla violenza chi magari mi vuole fare ma un attentato, no, o chi mi vuole rompere i coglioni. Ah, io istigo. Sì, tu hai detto delle cose su di loro e io istigo. Certo. Hai insultato milioni di persone. Ma questo, ma chi te l'ha detto? Io dico sempre la mia opinione. Io ho sentito quelle ma cose, ma non ho insultato nessuno. Poi dopo ognuno Giovanni ho insultato? No, infatti non è che lui è il giudice, ma in questo caso è il giudice. È insultante. Non concesso che voi, parlo di lei, Cruciani, la Santanchè, abbiate insultato la religione, uno si prende la responsabilità lui, di quel che fai. Io non ho insultato nessuno. Lui, dico Parenzo, ha fatto molto peggio, cioè ha istigato con le sue ma non ha istigato proprio niente. Sì, lei ha istigato, vi faccio dire il mio parere, poi lei può essere dell'opinione. È insultante dire quelle cose a milioni di fedeli, assolutamente no. E quel che è peggio, lei a parte c'è modo e modo di dirle attraverso cose. Un mezzo mass mediatico a larga risonanza. Qual è beh, la certo, zanzara? Qui siamo. Qui siamo mica a un convegno alla Bocconi. Proprio gli eventuali ascoltatori di fede musulmana, e ce n'erano, come tra l'altro si è potuto constatare da un intervento. Beh, certo che ci sono. Della trasmissione. No, lui sta dicendo che quando tu dici stai insultando, ma l'avete detto voi. Venite dall'Arabia Saudita. La Santanchè ha fatto un tweet. Tu hai detto quel che hai detto su milioni di fedeli che sono andati semplicemente lì, io dico semplicemente questo: che andare alla Mecca mi sembra una roba medievale. Mi sembra una roba medievale. Milioni di fedeli si possono sentire offesi legittimamente. Si possono sentire offesi, ma non è che questo è un insulto di per sé. Dai, è un insulto. Ma vabbè, Massimo da Perugia. Ma cos'è un insulto allora? Vabbè, non dai, so, su, qual forza. È un insulto? Massimo definiamo Perugia. La parola insulto. Massimo insulto? Perugia, vai Massimo. Ciao. Dimmi. Ma volevo capire perché Parenzo si incazza quando Berlato dice quelle cose. Per capire, vorrei capire. Io lo compatisco, non è che mi incazzo. Non mi lo compatisci perché? Perché lo compatisco casa... perché un politico che parla in quel modo là, sai. Vai Massimo. Perché se qualcuno viene a casa tua e ti punta la pistola sulla fronte, tu sei armato? Ma cosa certo fai, che mi difendo, ma cosa vuol... che discorso è? E allora che allora a parte che non ho il porto d'armi, per cui non posso sparare a nessuno perché non ho il porto d'armi, le armi mi fanno paura, quindi non... mai le prenderei e quindi non sono adatto a gestire delle armi. Quindi è un diritto entrare in casa. Ma chi ha detto questa cosa? Ma chi è? Qualcuno ha detto che è un diritto? Qualcuno ha detto che è un diritto entrare in casa? Qualcuno ha detto che è un diritto rubare? Non lo so, allora dimmi. Ho mai detto una cosa simile? Mi sembra di sì, perché dici ti incazzi. Ho criticato il fatto che un politico che è nelle istituzioni, un politico può dire delle cose che riguardano la difesa personale, può parlare di queste robe qui. Può parlare alla difesa. Parla liberamente. Certo, perché vuole che le leggi cambino. Fa un incitamento alla difesa personale. Ma no, ma certo. Io non credo sia una cosa civile. Ma scusa, ma i politici di che devono parlare? Scusa, devono cambiare la legge sulla difesa personale. Non possono parlare di questo, ma sei impazzito? Io non penso sia una cosa giusta, ma non pensi che sia una cosa giusta? No, tu dici che non è una cosa giusta nemmeno parlarne, Massimo. No, dimmi. Dico che è un'istigazione alla violenza. Ma quando mai le armi in casa? Denunciamolo pure, dai, Massimo. No, delinque, no. A casa mia, io a casa mia faccio quello che cazzo mi pare e ti sparo sulla fronte. E poi prendo il corpo e lo butto nel secchio dell'immondizia. Pensa un po' te. Ecco. Bene, andiamo a Brescia, Nicola. Nicola, dimmi. Tutti i cuori di leone. Nicola, dimmi. Tutti i giustizieri. Va bene, dai, notte. Giovanni Cagliari. Ehi, ciao Cruciani. Dimmi. Guarda, sono d'accordo con te sul pellegrinaggio alla Mecca, guarda, hai perfettamente ragione. Io non so se Parenzo conosce il mondo arabo. Sì, bene, molto bene. Conosce molto. Allora, lo conosco molto bene anche perché in alcuni paesi arabi ci sono stati. Vabbè, in altri dai, Giovanni, non ci posso forza, andare. Quindi. Comunque, il Papa raduna milioni di persone, non succedono queste cose. Ma certo che non succedono, ragazzi, ma lo vogliamo dire che succedono solo nell'Islam? Dai, su, no, basta, succedono solo nell'Islam. In Arabia Saudita succedono. In Arabia Saudita, che è un paese che vi piace quando compra i grattacieli e le banche a Milano. Che noia. O quando, noia, ma è così, o quando vi comprano l'Italia, a me non mi piace. A me non me ne frega niente dell'Arabia Saudita. Se affonda domani, se scompare domani mattina, non me ne può fregare di meno. Fermi tutti, fermi. Beh, dovrebbe, perché non hai più il petrolio con cui ti riscaldi. No, lo prenderemo da altre parti. Tanto. Siete proprio delle bestie. La Zanzara. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. I moderati consigli della signora Luxuria. Come dimenticare? Beh, però può essere vero, può essere vero, attenzione, può essere vero. Pippe, molte pippe. Ma vogliamo dimenticare la figuraccia che ha fatto il senatore Auricchio, che si era proclamato verdiniano, oddio, ho detto verdiniano, la gente non capisce, e seguace del senatore Denis Verdini, fedelissimo di Berlusconi, che però ha fatto un gruppo suo al Senato per appoggiare le riforme di Renzi che adesso Berlusconi non vuole, spieghiamola così. Il senatore Auricchio, aveva proclamato: io passo con Verdini perché Renzi no, può fare una nuova Democrazia Cristiana, non mi ricordo che cosa ha detto, eccetera eccetera. Poi lo chiama Berlusconi e finisce in questo modo. Pronto? Sì, buongiorno, qua Arcore, senatore Auricchio? Sì. Le passo il presidente Berlusconi un attimo. No, grazie. Allora, sindaco, come stai? Benissimo, non ti preoccupare, tu sei nel mio cuore. Non ti preoccupare, poi chiariamo un po' da vicino. Puoi parlare un attimo? Siccome no, io voglio solo che questa classe dirigente di Forza Italia non ha le palle come Silvio Berlusconi. Lo so. Questo è il mio dispiacere. Dimmi esattamente cosa posso fare per te. No, niente, io ti voglio dire una cosa, poi niente, non ti preoccupare che io sono sempre Silvio Berlusconi, sono io Silvio Berlusconi. Lo so, sindaco. Silvio Berlusconi non c'entra, perché Silvio Berlusconi per me è come la Madonna. Vai con io... Dennis o no? No, non ti preoccupare, sto con te. Allora io posso stare tranquillo, resti con me. Sì, signore, tranquillissimo. E invece con Gasparri cosa è successo? No, l'ho capisco, ha fatto delle cose, ha fatto la dichiarazione da cretino. Lui dice cretinate sul giornale, no, questo non l'accetto con lui. Va bene. Allora, sindaco, ci vediamo presto e chiariamo definitivamente. Presidente, tu sei il mio presidente fino alla fine del... basta, non parliamo più. Va bene. Ciao, va buon bene. Viaggio, a presto. Ciao. Ciao, presidente. Ciao, sindaco. Ciao. Marco, provincia di Genova, vai Marco. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Lorenzo. Allora, io volevo dirti molto velocemente che sono preoccupato per te, per le frasi che sulla Mecca, diciamo più o meno rispettose sulle tue opinioni, perché comunque i musulmani non sono tutti uguali. Ma guarda, io me ne sbatto i coglioni, io dico quello che penso. Ma sono d'accordo. Me ne sbatto, io sono in un paese libero e dico quello che mi pare, Sì, ma non si può insultare. Io non insulto nessuno, dico quello che mi pare. Se dico che la Mecca per me andrebbe chiusa domani mattina. Ma è una stupidaggine, ma non ti rendi conto? Sarà una stupidaggine. Ma non è neanche una roba che lo dice, una provocazione, perché nessuno ha detto una follia simile, capisci? Cioè non è una roba che la dico io. Ma non ha logica. Allora uno dice chiudiamo. Sono con quello che ha detto Feltri. Chiudiamo Gerusalemme, chiudiamo. Ma che vuol dire? I pellegrinaggi. Ma cosa vuol dire chiudiamo i pellegrinaggi? Milioni di fedeli nel mondo credono. Purtroppo. Cruciani, innanzitutto volevo dire una cosa, che tu sei come Renzi, a questo te lo devo dire, perché avevi strapromesso che avessi tolto la musichetta alla fine della trasmissione, la musichetta c'è ancora. Sì. Mi dispiace, io questo te lo devo dire. Su che cosa? La musichetta? Su? La musichetta quando finisce la trasmissione, che la odio. Quale musichetta? Spiegami, qual è la musichetta? alla fine della trasmissione, quando sta per finire la trasmissione, c'è una musichetta orrenda sotto. Tu avevi promesso di ma non è che sono colpa mia, cioè non è colpa mia. Ma non è colpa mia. C'è la stessa musichetta alle 20, alle 19, ma sono residui del passato che vanno bombardati col napalm, come la borsa, come il traffico. Ma sostieni, non è che decido io, amico mio. Avessi deciso io toglierei tutto, per cui che vuoi da me? Ascolta, tu mi sei già costato un sacco di soldi, perché io mi ero già preoccupato per te al tempo dei napoletani, che ce l'avevi a morte, dicevi cose strane che potevi essere frainteso, non è che ce l'avevi a morte. Tu addirittura spedito lo spray al peperoncino, mi sei costato 70 euro, mannaggia, mi avessi detto grazie. Non lo so che sei tu, però, scusa, non lo so che eri tu, cioè... Sto scherzando. Vabbè, allora? Vai, usalo, tienitelo vicino, perché rischi veramente qualcosa. No, non si rischia nulla, per fortuna non si rischia nulla. Credimi, usalo, ti ho fatto un regalo col cuore, fidati. Se lo ritrovo, perché mi ricordo di aver ricevuto una cosa del genere, uno spray, perché mi hai mandato lo spray al peperoncino, scusa? Quello si manda una donna. Non so, invece no, perché io mi sono reso conto, mi sono sempre difeso con le mani, ho fatto buttafuori di qua di là, poi ho fatto un incidente, mi sono ritrovato meno forza nelle mani, eccetera, eccetera. Ho scoperto che comunque non puoi basarti né sulle parole, né a volte. Perché tu vai dietro con uno spray al peperoncino, ti porti dietro? Io ce l'ho, guarda, io il Defender era addirittura legale quando era. Ma cos'è quello che mi hai mandato? Cos'è esattamente? È una specie di tubetto di alluminio nero che si può ricaricare dentro Ma è legale in Italia quella roba lì? Sì, certo. Allora, innanzitutto sono legali adesso tutti, ma questo era legale anche prima, lo trovi sul sito della questura. Praticamente questo qui tu non te lo tolgono dalle mani perché ha un'impugnatura diversa, è molto piccolo, lo usi come un portachiavi, puoi ricaricarlo, puoi metterci la carica di acqua per esercitarti, cioè è una cosa seria, non è una cazzata. No Marco, ma io adesso me lo ricordo, guarda, lo vado a prendere, in uno degli intervalli lo vado a prendere, se non mi ricordo male ce l'ho detto un cassetto qui. Ma che si può fare con una cosa del genere? In caso di aggressioni, naturalmente. Guarda, io, ovviamente, questo è solo per difendere. Ma la difesa di una pistola, che se tu la usi e sei una brava persona, vai nei guai, qualunque cosa. Non so, se un musulmano, dopo quello che ho detto, viene a rompere i coglioni, esatto, effettivamente potrei utilizzarlo. Esatto. Io poi non ho capito una cosa, scusami Marco, tornando alla vicenda di prima, no? Se una cosa del genere accadesse in Italia, cioè se in un posto frequentemente, lasciamo perdere la religione. Beh, no? Negli stadi. Aspetta, se in un posto frequentemente ogni anno, sì, può succedere, appunto, se in un posto. Invece frequentemente ogni anno succedono cose del genere, cioè le persone vanno lì in adorazione del dio Bubù e vengono schiacciate, muoiono 200, 100, 50, 70 ogni cazzo di anno, che cosa succede in un paese normale? Chiudono baracche e bottini. Ma non è che chiudono, ma è così, anche come gli no, chiudono. Chiusi. Senti, se tu hanno pensi, tu vuoi ancora paragonare, se tu vuoi paragonare evidente. Quello che succede negli stadi a quello che succede alla Mecca, è successo in Belgio, fai un torto alla tua intelligenza, ai concerti. Fai un giro torto per il mondo. Alla tua intelligenza. Ma intanto io dico, non si insultano milioni di fedeli nel mondo. Smettila. Non è tutto un gioco con Luna Park. Bisogna pensare alla responsabilità di milioni di persone che credono in quella io cosa. Dico quello che penso. Omar Torino, per cui vanno bene tutte le vignette, anche contro Maometto, l'Islam, tutto. Non c'entrano le vignette. È uguale, non Omar, niente. Tu dici la stessa cosa sulle vignette, pensa un po'. Omar Torino, vai. Sì, allora parlo da musulmano non praticante, sì. E spezzo una lancia a favore di Cruciani. Inutile Parenzo che dire che Cruciani ha insultato, non ha insultato, ha detto un parere su una cosa. Io sono stato a Mecca, sono stato alla Mecca come visitatore, perché ero in viaggio di lavoro, il mio cliente sì, mi ha detto allora... vieni a vederla. Sono stato lì e sono rimasto scioccato da... diciamo l'inciviltà della gente, ma non tutta, diciamo un 30%, un 20%. Beh, che sono centinaia di migliaia di persone. Che si è una roba incivile, ma è una roba da medievale. Allora, ma la vogliamo dire o no che sono pratiche barbare o no? Allora, ma perché uno non deve dire la verità, la realtà? Le dico una cosa. Chiudere no, perché non puoi. Ma no, ma io dico chiudere per dire chiudere perché se accadesse in Italia una cosa del genere, quei fenomeni non ci sarebbero nei paesi civili normali, non esistono queste cose. Su, dai. Infatti l'Arabia Saudita non è un paese civile, questo devi dire. Lo dico anche. Questo è il punto che provo a dire oggi giorni, ma insomma. Allora adesso il cancro per me. Sì, ma se la Mecca fosse in Tunisia non sarebbe diverso, Omar, dimmi. Conta il governo, il Saudi che gestisce sta roba. Saudita per me oggi è quello il problema, quello è il certo, male, perché dunque... questa gente guadagna più di 35 sì, miliardi. Sì, ma questi qua, caro amico miliardi. Che telefoni, lo fai, lei lo fai, se lo fai parlare qua o no? Insultano la religione, fammi non dire. Il governo saudita che invece fa comodo a tutti vai, quanti. Omar, questo dai, è il punto. Dai. No, non c'è un insulto alla religione qua. siamo sei intelligente, lo sai bene, tu sei anche un cugino, diciamo, un cugino, certo, lontano. Quindi a questo punto questa gente guadagna 40 miliardi solo nei 10 giorni del pellegrinaggio, certo, solo nei 10, certo, giorni del è per questo perché non lo chiudono e se ne fottono della, e se ne fottono di fare schiacciare l'Arabia Saudita, infatti è l'Islam, vedi che sarà, sei stupido, bravo. Ma l'Islam cosa vuol dire? L'Islam anche questo signore è islamico, ma come si fa a essere così superficiali? Si rende conto del problema anche questo qui è un islamico, dice l'Islam è il problema, ma che vuol dire l'Islam? Si rende conto del problema, anche Ciaucchi è islamico, ma che vuol dire l'Islam? Si rende conto del problema. Ma non si può dire l'Islam, Omar, così. Diglielo tu, Omar. L'Islam. Ma che Islam? Omar, diglielo tu. A me non sa. Mi piace, purtroppo. Allora dico una cosa. No, ma diglielo, perché a me non sa. A me non mi sa. Ma è come dire che anche Ciaucchi. Noi oggi stiamo combattendo con gente incivile, con ignorante. Che infatti, l'Arabia Saudita è incivile. Per me, certo. Parenzo, sei mai stato in Arabia Saudita? Ma non ci posso andare io, ovviamente, essendo ebreo. La mia domanda. Ma ti pare che la difenda? È da due giorni che lo dico. Io sono stato. Non l'Islam, però. Vabbè, Omar, ti ringrazio. Ciao. Fermi tutti, adesso parole moderate, parole diverse da quelle che sentite di solito, caro Parenzo, parole come di amore nei confronti dell'Islam, nei confronti della Mecca, nei confronti degli immigrati, nei confronti dei profughi. È con noi, secondo te chi c'è? Tremo. No, dai, dimmi chi c'è, a Tremo, dai, dimmi chi c'è. Parole moderate, ho detto, moderate. Un personaggio pericoloso che per fortuna anche in giro per il mondo è considerato una macchietta e non un politico, quindi... Però parole come quelle in bocca ad altri potrebbero generare dei conflitti mondiali pesanti. Le stesse parole dette in bocca a persone serie, sì, potrebbero creare dei problemi, perché sta giocando col fuoco. Però facciamogli fare l'apprendista stregone ancora. Avanti. Gianluca Buonanno, buonasera, sì. Buonasera. Ciao. Come ciao, andiamo? Tutti. Come andiamo? Ciao. Bene, bene. Senti, ma che cos'è che hai scritto l'altro giorno? Cose da pazzo, sono come animali quelli della Mecca? No, perché ho visto una statistica che dal 1990 a ieri, sì, più di 3.000 morti, più, sì, di 3.000 morti per questi pellegrinaggi. Allora, sì, veramente mi sono domandato, ma come fanno ogni volta ad avere tutte queste tragedie? Perché sono delle tragedie, perché quando muoiono le persone sono comunque tragedie. Allora mi chiedo veramente se in nome di un Dio o in nome di quello che è la Mecca devono veramente arrivare a una mattanza del genere. Questo era il concetto. Sì, però lei espressa, hai detto sono come? No, sono come, ho scritto che sono come animali e invece della Mecca sembra lo zoo. Cioè, perché si schiacciano, dici, no? Sì, ma, sì. Cioè, ma io veramente non voglio sottolineare, non che sono contento se la gente muore, ci mancherebbe. Cioè, paragonare i fedeli agli animali. Tutte queste persone, sì, è veramente un disastro. E poi ho visto un'altra cosa che mi ti ho anche detto in una trasmissione televisiva, che è questa. Vicino alla Mecca, sì, è un posto, sì, dove ci sono delle tende con l'aria condizionata perfette, dove possono starci 3 milioni di persone. Sì. No? Allora, ma se tutte quelle tende che ci sono lì con 3 milioni di persone che possono andarci, ma perché tutti questi clandestini che arrivano non li mandano lì? Sono tutti musulmani e perché non vanno in Arabia Saudita? Non vanno, cioè, tu Dubai? Dici clandestini, ma, che arrivano in Italia, è intelligente in Europa? O è scemo? Portarli, cioè, io voglio capire un attimo, cioè, la lingua in Arabia Saudita dove c'è grande spazio, ma non sa neanche cos'è l'Arabia Saudita. Stanno musulmani con musulmani, ma stanno tutti lì, hanno l'aria condizionata, stanno bene, sono tranquilli. Ecco, perché non lo fanno? Perché invece devono venire in Europa? Vabbè, non è che sono tutti musulmani quelli che arrivano qua, eh? C'è della, secondo me, c'è proprio della stupidità. Ma ce ne sono tanti che sono musulmani, no? Ce ne sono tanti. Beh, sì, certo, direi. Ce ne sono. Però diciamo la verità. Gianluca, a te, diciamo, la morte di 400, 500, 700 persone alla Mecca. No, 700 persone. No, sì, non sei particolarmente colpito, diciamo, dalla morte dei signori islamici. Ma no, io non rido sulla morte di queste persone, ci mancherebbe altro, però cioè, mi dà fastidio, perché se io penso che quando c'è stato l'11 settembre c'erano tanti di loro che ridevano sulla tragedia dei 5.000 morti e sull'attentato fatto da questi terroristi islamici, o che vengono qua e ridono sulle disgrazie che succedono, come è stato l'ultimo l'aereo di quel tedesco matto, che poi gli stessi tedeschi che hanno la plastica nel cervello dicevano che invece loro sono i più bravi del mondo anche con i piloti, e facevano andare a loro. Allora questa gente qua alla fine ridono sempre di noi. Io non è che rido di loro, però visto anche quello che succede, se la vanno a cercare, se la tirano. Cioè tu dici, chi va alla Mecca se la va a cercare un po', se ormai se la va a cercare. No, quelle sono... Come? Presta... Ma dove sei? In un antro? Dove sei? No, sto entrando in... In gabinetto. Dove sei? In gabinetto, nel suo ufficio. Sono a casa, Aspetta che adesso vado in bagno. Dove vivi? In una grotta vivi, neanche se sei. Vai in bagno. Ah, eccolo qua. Vai in una grotta. Parenzo dentro il WC, scusa. In una grotta vive questo qua. Vai, tira un po'. Meno male che è un politico che non conta nulla, perché le cose un attimo. Aspetta che faccio fare una doccia a Parenzo. Beviamo, dai. Vecchia battuta che facevo io di 5 anni fa. Hai sentito la doccia? No, abbiamo sentito, sembra un po' la pipì. Sembra la pipì. Hanno staccato l'acqua pure. Ma tira un attimo il cesso, voglio vedere se veramente sei al bagno, perché non è che ci puoi ingannare così. L'ho tirato, adesso ho appena tirato. Non ha pagato la bolletta, quindi gliel'hanno tagliata. Gli hanno tagliato pure l'acqua, gli hanno tagliato. No, ecco, sto sentendo qualcosa, qualcosa. Che cos'è questo? È rubinetto. Ah, è rubinetto. Non c'è neanche l'acqua. No, ma ce l'hai l'acqua, sì. Poi possiamo stare. L'acqua ce l'ho. No, ma io voglio capire una cosa, dai, su. Quando uno parla di animali, adesso non facciamo troppi moderati qui. Quando tu parli di animali che dovrebbero andare allo zoo. Sembrano come. Sembrano. Offende, ma è offensivo questo o no? Ma adesso sembro strano io. Ma è offensivo o no? Ma un politico. Allora, se un politico normale e minimamente conosciuto, per fortuna né normale né conosciuto, e anche in tutto il mondo ridono, se neanche è Buonanno, per fortuna. Un qualsiasi politico americano, no, serio, del congresso, si fosse permesso di fare un tweet come quello di questo poveraccio qua, ma sarebbe scoppiato un casino diplomatico inenarrabile, avrebbe scatenato una guerra, cioè per fortuna i politici che contano sono persone serie che mai scriverebbero delle stupidaggini di come lui. Questo diciamo è un clown, ma non evidente, hai capito il concetto. Ma non c'è da spiegare. Scusami. Hai dato degli animali a milioni di fedeli che vanno alla Mecca, che è una città. Hai detto quello. Giochi col fuoco. Ci sono delle tu. Tragedie del genere, e ogni volta capita sempre una tragedia. Cioè, non capiscono che cosa succede se vanno in massa così. Per te chi va al pellegrinaggio là alla Mecca chi è? Come si può definire uno che va là al pellegrinaggio alla Mecca? Ah no, perché ognuno crede al proprio Dio. Però se c'è una religione che alla fine fomenta l'odio, e che è l'unica religione che ha dei guai in giro per il mondo sempre e comunque, questo è l'Islam. Non è che ne possono dire il contrario. Cioè il Corano è effettivamente un punto di riferimento che porta solo dei problemi. Ma scusa, ma questa tu... è la verità. Ma scusi, nessun leghista ha mai incontrato il re dell'Arabia Saudita? Vabbè, lascia perdere. Lei sa che già lascia perdere. Però scusami, lei sa che l'Arabia Saudita è una monarchia assoluta, che non c'è neanche il Parlamento? Quel signore lì è stato mai incontrato da qualche legaiolo in giro quando magari erano al governo? Ma di che cosa parla? Di cose che non sa. Guarda che incredibile. Differenza tua. Proprio giocano sull'ignoranza della gente. I numeri. Io dico quello che penso può essere giusto. Ma gli islamici. Piacere, non può piacere. Ma scusa, per te gli islamici. Scusa, non è che quello che dico io va bene per tutta la Lega. Scusa, quelli, io faccio. Quelli un, che. Un, quelli, un, gli islam, scusa, Gianluca, gli islamici secondo te devono stare in Italia? Ma se tutti via, io sarei contento. Ah, se tutti quanti gli islamici, ma certamente. Quelli di religione islamica, io starei solo meglio. Buonanno dice che senza islamici in Italia staremo meglio. Ma può dire come, siccome certo. Conta come dopodiché una suola la scarpa, può dire quel che vuole. Lo dicesse un altro politico, avrebbe più influenza. Di religione, io personalmente posso farlo vedere carte alla mano. Ho aiutato centinaia di persone che sono islamiche, le ho aiutate, perché facendo il sindaco le ho aiutate, e non mi vergogno dirlo, e sono anzi orgoglioso. Però se ogni volta che ci sono delle situazioni c'è sempre di mezzo l'Islam, Maometto e il Corano, e se uno si sbaglia a scrivere qualcosa, come è successo quel noto scrittore, ancora adesso vive con tutta significa la cosa, che sono violenti. Che sono significa? Violenti, ma sì, perché è una religione che genera violenza. Fermo lì. Poi ci sono tante persone per bene e fermo lì. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. La Zanzara. Questa radio deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. I know you love your loving, and when you're done with all your loving, come to me. Ma vogliamo ricordare la teoria di Red Ron ieri sera sui vegani? Cioè, chi è vegano? Chi è vegano? Tra le cose che ci sono, stare bene, non prendere antibiotici dal 90, non ammalarsi, crescere, non è... di più, dice qualcuno, cresce di più, fare l'amore meglio, che è una cosa che no, ti interessa si molto meglio. Molto, perché hai una sensibilità maggiore, non hai più gli abbiocchi, mi faccio Milano, ma io non lo so, Milano Bologna di notte alle 3 di notte senza addormentarmi, hai capito? Prima del 1990, quando non era vegetariano, Red Ronnie. Prima del 1990 scorreggiavi. Come tutti? Scorreggiavi, però anche in maniera così consistente. Scorreggiavo, scusa. Il mio scorreggio è scusate, signori. Oggi non più. Quell'odore, per te è odore, per gli altri puzza, perché solo chi la fa la regge. Sì, è un odore meraviglioso, per me, esatto. Ma quello sempre vale. L'odore, tu sei innamorato della tua puzza. No, i propri odori, esatto. Sì, questo sempre, ma anche tu sei innamorato della tua puzza. E non la faccio più. Allora, c'è una telefonata di Umberto da Udine, che vuole parlare di buon anno. Umberto? Pronto? Sì, Umberto, dimmi. Sì. Ma io sono piuttosto perplesso per il signor Buonanno. Sì. Perché. Ma tu di dove sei, scusami? Perché qui vedo da 40 anni in Italia, tunisino. Sì, no, io ormai sono friulano. Sì. Però è vero, sì, sì. Io sei di origine tunisina? Sì. Islamico, e lui, insomma, parla di animali. Invece l'animale, evidentemente, lui si dice queste cose. Perché? Insomma. Perché uno che dice agli altri di un'altra religione che sono animali, non può che essere un animale, voglio dire, insomma, non è uno schifo, è una vergogna, ma come no? Certo. Ho sentito, non sono mica semo. Esempio, il giubileo, quando c'è il giubileo, ma che giubileo? Io ho sentito che ha definito animali, se mi posso parlare, il giubileo non è una questione di civiltà. Di sì, civiltà. Ma è la tua che non lì, è civiltà, è uno schifo. Milioni di persone che sono ferme Europa. A mille anni fa, ma sono non si fermi vergogna. A mille anni fa, è sono fermi al Medioevo. Una sono vergogna. Fermi al Medioevo. E la io non ce l'ho con lei che si è integrato. Anzi, la paghiamo noi. E noi siamo animali. E ma lei se non ho detto allora? Quello! Se noi ignorante, siamo animali, non ho detto quello, lei è un ignorante! Anzi, ti do del tu, perché non mi rispetti, no, sei un mi ignorante. Dai dell'animale sei e un mi dai ignorante. Dell'ignorante! Vergognati! Sei un ignorante! Dall'Europa, e dimostra ancora una volta ecco. Che chi come vergognati. Lei pensa di venire in Italia a comandare, lei è un ignorante! Ma che comandare? Io lavoro da 40 anni meno in male Italia! Che lavora. Tu non lavori! Meno male, perché ne dobbiamo mantenere tanti e gente come lei in Italia! Dobbiamo mantenerne tante vergogna. Di gente come lei in Italia che non pagano niente nella sanità, che hanno le case popolari e non pagano niente. Parli? Lo sa o no? Ma di che le case popolari, l'assistenza sanitaria, c'è un milione adesso. Di persone come lei che non pagano. Sì, e noi paghiamo te. Vado in Tunisia. Vado io in Tunisia, gli chiedo io un alloggio popolare alla Tunisia, vado in un ospedale in Tunisia se mi mettono a posto senza pagare nulla, porto fumi? Mio zio, mia nonna e mio cugino e vediamo cosa, se fanno le cure senza Umberto, pagare. Ma tu sei ortodosso, c'è cioè uno di quelli che prega, com'è la storia? Cioè Umberto, dici Allahu Akbar, queste cose qui, tu andresti... Sei andato alla Mecca qualche volta? Sì, naturalmente, credo di sì. Ma certo che ci sono andato, però cosa vuol dire? E non c'è tutta questa bestialità che si dice. Beh, insomma, adesso... Ah, no, e quei morti cosa sono? Li hanno calpestati, cosa sono? Nel giubileo mi è capitato, è una questione di civiltà. Ecco, la civiltà che però tu non hai, perché ti definisci animale, questa è la verità. Ci sono centinaia di milioni di musulmani che non conoscono la civiltà. È un nastro questo, è registrato. Io non sono un nastro. Cosa. Mi io sembra non sono un nastro, sì. Però nastro che lei che venga a dire che i musulmani sono civili a posto, no, impari la democrazia, no, ti metta in lista e ti faccia votare. Tu devi imparare la buona Anna. Somaro, cioè un somaro. Che siamo somari e animali, complimenti. La democrazia è che uno si candida e poi viene votato. Ma tu preghi, no? Preghi Umberto, preghi quotidianamente. Certo che devo pregare, cioè devo pregare, prego, è la mia religione, punto e basta, ma non è questo il punto. Io ho chiamato soltanto per dire che si deve vergognare questo signore che ci rappresenta e che paghiamo e non mi rappresenta personalmente. Ma tu, io sono io felice non sono di, non animale, essere, va bene? No, di non avere il suo voto, non lo voglio neanche il suo ma voto. Io non voglio morire islamico. Imparate la civiltà. Sì, e lei è ospite qua. Impari la civiltà. Beh, ospite, questa è da una vita anni. Che sta qua. È una vita che ma sta qua. Ma guarda, è veramente un analfabeta questo qui. Cioè, vabbè, questo dai, è un analfabeta cretino. Ma ti dico anche perché. Perché è veramente un cretino. Spero che le parole rimangano registrate. Un cretino analfabeta che no, sta in Europa. Stai esagerando. No, lui non esagerando. Sa neanche. Stai esagerando. Lui no, non ne esagera per niente. Reagisci. Perché lui non sa neppure che la regione Lombardia guidata da Maroni. Non sai niente. Non sai niente. Perché la regione Lombardia governata da Maroni sta per vendere una società partecipata della regione all'Arabia Saudita. Ma che c'entra questo? Siete dei cialtroni, siete altro che cialtroni e gente pericolosa. Siete persone pericolose, lei più di altri, però per fortuna non conta nulla, quindi il suo tweet non verrà visto da nessuno. La regione Lombardia stava per vendere una società strategica all'Arabia Saudita. Vabbè, trombone, un attimo, fai parlare Gianluca. Finisce di parlare. Trombone, non sapete un cazzo di niente proprio. Ma io non c'entro. Ma sapete niente, tutti, dai. La regione Lombardia che vende la Arabia Saudita. Ma come che chi c'entra? Le persone, è un animale. Che c'entra con gli affari? Non dove c'entra è venuta nulla. Sta. Non c'entra niente con gli affari. Ma sai quanti tipi di Islam ci sono, ad esempio? Sì, ma la differenza tra sciiti e sunniti? La differenza tra l'Arabia Saudita e la Giordania? Sì, ma non fare il professore qua, amico ma mio. Allora, non fare il professore dire che caschi cazzate, male. Caschi siccome male. Dite cazzate e fomentate l'odio sia tu che lui. Fomentate l'odio e quel somaro di leghista non sa neppure che la regione Lombardia trattava con l'Arabia Saudita. Caschi male, ma non caschi sapete male, nulla. Tu sei inutile. L'unico professore sei tu. No, professore, no, però due o tre cose quando ne ho lette sull'Arabia Saudita. Due o tre. Musulmani. Ma lo vogliamo piantare o no? Ancora. Uno che calpesta le persone, uno. Ma uno chi? Ma chi? Che calpestano le persone, sono animali. Dopodiché di tutta ma quella sono gente chi? Non ci sono animali. Ma io non ho detto quello. Vabbè. Ma c'è anche fatto il codardo no? Adesso. Siccome si è reso conto di aver scritto una bestialità, per ma fortuna non conta nulla. Siccome ha scritto vero. Ha paura, tu giustamente, Parenzo, perché tu offende Parenzo, le persone, quindi deve avere paura. E tu chi che offende deve che avere paura. Ma Arabia Saudita, ribellati. Ribellati? Ma cosa sta dicendo? L'hai detto tu prima, non posso ma andare cosa in Arabia Saudita perché dicendo? Sono ebreo. E perché ma c'è... non puoi ma andare? Ma secondo te difendono l'Arabia Saudita donne io? In Arabia Saudita non posso vabbè, avere ragazzi, la patente? Ma è incredibile. E perché non c'è la parità uomo-donna per quanto riguarda i musulmani? Proprio. Questa che cos'è? Civiltà? I è civiltà mettere il burka? Confonde civiltà? Tutti i musulmani. Senti, l'Arabia Saudita non sa niente. Gianluca, Parenzo, se fosse vera una notizia oggi che è venuta fuori da Ventimiglia, cioè che un attivista sarebbe stata stuprata da quelli che erano a Ventimiglia là dai migranti, da uno dei migranti e poi obbligata quasi a tacere poi ci sono diverse versioni eccetera eccetera, sarebbe clamoroso se questo gruppo che non mi ricordo come si chiama avesse imposto il silenzio a questa ragazza stuprata perché altrimenti veniva messa in pericolo l'accoglienza dei migranti ma va bene tutto, quelli non sono animali, se l'hanno fatto sono animali pure quelli. Sì, vabbè, ma questo non c'è dubbio. Ma cazzo, scusa, io ma ho fatto certo. Questo ragionamento perché se fossero stati italiani, tedeschi, francesi, avrei detto la stessa cosa. Beh, animali sono stati anche coloro quando che uno... lo stadio Heysel, quando c'è stata la finale Juve-Liverpool, no, il paragone sono non stati è... ammazzati, sì, ma quello anche è chiaro. Quelli sono stati animali. Ma questo non c'è dubbio, però il paragone è diverso, dai, su, non ci può stare no, il paragone. Certo, perché in quel caso lì è peggio quello della Mecca, perché sono tutti concordi. E quando però succede il disastro li calpestano, li uccidono e come se fossero nulla, per quello che hai detto che si comportano come animali. Però aspetta, adesso ti faccio sentire invece, per cambiare argomento e poi chiudere, ti faccio sentire il meraviglioso ragionamento di Vladimir Luxuria, ti prego, segui questo ragionamento e poi anche, fammi rispondere però. E anche tu avrai la tua purificazione. Sì, la tua purificazione finale. E questo è il ragionamento della signora Luxuria. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. Ecco, potrebbe essere una cosa che da seguire. Ma si vede che lei è esperta. Beh, sì, cioè, su quello. Esperta, quindi se lo sa vuol dire che va bene così. Ma cioè, ripeto, su qualunque religione, io no, non voglio questa, ma questa, quel tunisino ma già è inutile che non capisce c'ha, un tubo. Ha capito di averla sparata. Si calpesta una persona e ne hanno calpestate 700 a fischia. È un sì, animale. Però lascia perdere. Io credo ha capito che di averla sparata grossa. Il suggerimento di Luxuria può essere seguito, lo puoi seguire anche tu o no? Cioè, magari chi lo prende in quel posto gli si apre la mente, un altro mondo. No? Allora lo suggerisco a Parenzo, che magari gli fa bene. Io ho altri interessi. Ho altri interessi, ma non discrimino, diciamo. Ho altri interessi. Però ribadisco. Oh, vabbè, non c'è bisogno di ribadire. Ribadisco perché no, ha capito sparata. A me l'Islam non piace. Vabbè, mi fa paura il Corano. E manco i froci ti piace. Nemmeno i froci ti piacciono. Odi il Corano tu. Odi l'Islam e il Corano. Diciamo la verità. Odi l'Islam e il Corano. Non mi piacciono. No, non, mi danno fastidio. Mi fanno orrore. Io penso che questa gente qua. Ma anche, odi anche i froci. Diciamola tutta. I froci li odi. No. Eh beh sì, no, non li sopporti i froci, non li sopporti. Non me ne frega niente se uno è frocio o non è frocio, basta che non rompa le scatole agli altri e faccia quello che vuole. Però non mi piacciono i gay pride, queste cose qua mi fanno schifo. Dopodiché però facciano quello che vogliono in camera da letto, non mi interessa. Ma devono fare in modo che nella società civile non si espongano a fare cose che sono contro natura. Perché uno che è frocio e comunque va contro natura. Perché va contro natura? Dai, non puoi dire che va contro natura uno frocio. Ma come no? Perché due maschi che si uniscono è natura. Ma dai, ma non sono contro natura due froci, dai, no, su. Per me sono contro natura. Cioè, ma due che in camera da letto si inchiappettano, è normale, è una cosa che può succedere. Beh, sarà normale per te, per me no. Ma no, ma dai, ma non è contro natura, dai, su. Facciamo il solito ma non può essere contro natura, uomo dai. E donna c'è un futuro, uomo e uomo non c'è futuro, donna e donna non c'è futuro. Vabbè, dopodiché, d'accordo, che c'entra? Se si vogliono copiare lo facciano, ma vanno contro natura. Vanno contro natura, che cos'è la natura? Cosa ti dice la natura? È che uno poi ovviamente si riproduce. Ma chi in quel caso non si riproduce? Non è detto, si vuole che non si riproduce. Si può fare sesso anche se si può fare sesso senza riprodursi. Mi pare una cosa normale. Beh, sì, ma ho capito. Ma scusa, ma fare, se a due persone piace inchiappettarsi, ma qual va è? Bene, ma facciano come vogliono. Però a te fa schifo, è contro quello natura. Che desidero io. Però se tu vedi, però la differenza è questa, la diceva anche l'amico Montanini. Se tu vedi, Parenzo, diciamo questa cosa qui. No, cioè, se lui vede davanti a sé una scena, no? Con due che si leccano, due lesbiche che si leccano, beh, ti piace moltissimo, Gianluca. Se tu vedi due omosessuali, no. Come no? Non ma ti no, piace. Ma no, sì. Non voglio andare su questi discorsi che non mi interessano. No, che non no. Mi piacciono. Se vedi... Io ho detto una cosa e lo ribadisco qua. Io se vedo due uomini che si baciano, mi dà enormemente fastidio. E due donne no, però. Due fastidio. Donne no. Due donne no. Due donne idem. Non mi piace, mi dà fastidio. Tu ti ecciti, secondo me. Tu ti ecciti con due donne. Allora, con due donne che si baciano ti ecciti. Io in generale, allora, sull'Islam io mi difendo, hai capito? Io non li voglio, perché sono indietro di mille anni da te stesso, e sugli omosessuali che fai? Ti difendi? Se non credere in un Dio, credono quello che vogliono, sono violenti. Vabbè, e sui froci che fai? Impongono le cose, io sono anti-Islam, e sugli anti-Islam. Io il Corano non lo farei neanche vendere in Italia, punto. Vietare la vendita del Corano in Italia. Non mi interessa. Ma quello no, quello il no. Corano è... Ma scusate, ma io sono è pazzo, potenti, ma li bruceresti? Ma li bruceresti o no? Ma li bruceresti? Quello che ha detto Oriana Fallaci è la verità. Ma li bruceresti i Corani? Così. Perché non fai un bel falò di Corani là a coso? A Borgo Sesia, un bel falò di Corani. Adesso ci penso. Un falò di Corani. Pazzo, guarda, non c'è da scherzare, però, veramente pazzo. Stai tranquillo, stai tranquillo. Divertitevi, ma è pazzo. Che l'11 settembre c'era in continuazione, gente un libro sacro, dai. Gente che esultava con 5.000 morti in quella maniera. Non si rende conto. Chi erano questi? Erano cristiani. Ma gli omosessuali che c'è. Che vengono crocifissi. È un pazzo. E i cristiani che vengono bruciati vivi. E i cristiani che vengono affogati. E i preti che vengono uccisi. Lì state muti. Ciao. Tu, Parenzo, stai muto. Lì stanno bene. A presto. Posso, ciao, è un pazzo, ciao, un pazzo. Brucità. La Zanzara. Per che è crocio e comunque va contro natura, eh. Allora, siamo qui, 800240024, Hisham Treviso, Hisham Treviso, sì, altro musulmano, vai, Radio La Mecca, vai, Hisham. Buonasera Crociani, buonasera Parenzo. Dimmi. Niente, volevo dire solo una cosa per il discorso dell'uomo che ha detto che i musulmani sono animali. L'uomo è un deputato, che... quello lì, sa, è un parlamentare. Non ha detto, non esageriamo. È un parlamentare. Non ha detto che sono animali. Quelli che si schiacciano. Parlamentare che non conta nulla, non stia tranquillo perché è un clown più che un deputato. Però no, è un parlamentare. Mia, non mi interessa, io voglio dire la mia, non mi interessa. Voglio dare le sera. Dimmi, dai, forza. Sempre mi piace il suo modo di pensare, di rispettare gli altri, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che sì, volevo dire la mia sul discorso che, la maggior, parte che muoio, la maggior parte delle persone che muoiono comunque in Mecca sono anziani, sono vecchi, sai. Non è vero, a parte che non è vero. Questo non è la prima volta, sai. Non è vero, non è vero, poi? Io sono marocchino, sai. Vabbè, ho capito, che vuol dire che sei marocchino? Che sei il capo della statistica dei morti alla Mecca? No, non intendo questo. Volevo dirci che la maggior parte sono anziani. Ari dai, non è vero, non è così. Questo non cambia la sostanza. Vabbè, comunque? Comunque, questo volevo dire che bisogna rispettare comunque le altre religioni, sai. Sì, dunque? Questi argomenti che ha detto il signore. Con chi te la vuoi prendere? Con Buonanno? Bisogna rispettare gli altri comunque. Questo è chiaro. Bisogna vedere se gli altri rispettano noi. Usama Ravenna, vai. Usama, che è? Ancora la Radio La Mecca stasera, vai. Buonasera. No, non. Che sei islamico pure tu, no? No, io non sono praticante, però insomma. Beh, ti chiami Usama? Dire. Usama mette un po' paura il nome. Usama. Ma no, significa leone, non è un nome. Beh, appunto, no, c'era un signore che si chiamava Usama. Esatto, è un nome molto comune, come Mario Rossi in Italia. A me non mette sicurezza. Rossi. Uno che si presenta come Usama. Ma ci sarà uno stronzo di Mario Rossi che ha sparato una volta in Italia, no? Sicuro, dai, su. Va bene, allora. Mario Rossi. Allora non vediamo posso nemmeno avere un crimine Mario Rossi in Va Italia. Bene, Usama, vai, Usama. Vabbè, c'è un Usama, Mario Rossi, ci vediamo precedenti, un Mario Rossi criminale, Usama. Mario Usama. Rossi criminale, vediamo se c'è. Ma veramente è il luogo comune più comune. Usama, vai. È Usama, poveretto, si chiama Usama. Dai. Sì, vabbè, riguardo il mio nome, non l'ho scelto io. Ma no, appunto, insomma. Ma è bellissimo Leone. Vabbè, il discorso è che c'è una versione circola online. Su quello che posso parlare. Vai, dimmi. Sì. C'è una versione che circola online su ciò che è accaduto alla Mecca, ovvero che questa calca che ha fatto sì che morisse così tanta gente sia stata provocata dal passaggio di un tale figlio di un emiro che con la sua scorta, aveva una scorta di militari o poliziotti, hanno cominciato a spingere. Peggio ancora. Questo accade molto frequentemente perché in quel paese non investono sulle infrastrutture, appunto, ma stanno ben attenti a guadagnare molti soldi sui pellegrinaggi, perché comunque andare lì costa molto ed è come Medjugorje, come teoria interessante questa qua, teoria interessante. Va bene, no, ciao, no, traffico, vabbè. Traffico, fermo, c'è il traffico, a proposito di gente che passa con la macchina, però qui non si ammazza nessuno, sì, muoiono la gente, normalmente muore la gente sulle strade, però... Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Ma non dire, ragazzi, ascolta, signore, che quello lì è un gatto morto. Andando all'Expo, Parenzo, l'ho già detto, sono andato con un tassista, no? Sì. Il quale tassista... Non sei andato allo stand dell'Arabia Saudita? No. Sono andato con un tassista, simpaticissimo. Non ho pagato, peraltro, non mi ha fatto pagare perché non c'avevo dietro i soldi, come al solito, non c'avevo i soldi in contanti. Vergogna. Allora, dovrebbe passare qui a via Monterosa 91 a farsi pagare. Prendersi anche i soldi. Certo, sì. Oppure ci mettiamo d'accordo. Non mi ricordo com'è che si chiama questo tassista, che non mi ricordo bene, di nome Pietro. Pietro, sì, Pietro. Allora, mentre andavamo, era incazzatissimo la signora Fornero. Senti che cosa dice la della Fornero, perché ho registrato una piccola intervista sul taxi, che inizia in questo modo. Taxi a Milano, il tassista è stato, dice lui, fregato dalla Fornero per quanti giorni? 10-12, avrei maturato la pensione al 10-12 gennaio del 2012. Sì. E dunque, che ti ha fatto la Fornero? Questo ha comportato, perché io lavoro dal 1 settembre del 70, quindi da 71. Dunque, dopo 41 anni dovevi andare in pensione? Certo, sono stanco. Le interviste sul taxi. Senti, la Fornero imbrogliona. E dunque, come la consideri lei, la Fornero? Il termine non mi viene. Un imbroglio. Dunque, un'imbrogliona. Un'imbrogliona, perché lei mentiva sapendo di mentire. Ancora quanto lavori? Sì, perché ho dei debiti in banca, ancora un anno o due mi tocca lavorare. Poi nel frattempo. Perché i debiti in banca sono aumentati? Certo, cioè, dopo di che si paga interessi su interessi. Siccome quando... cioè, la Fornero ti ha fatto perdere dei soldi alla fine? Assolutamente sì. Senti chi votano? Chi vota lui alla famiglia, addirittura dice. La mia famiglia, che è anche scolarizzata, Renzi potenzialmente ha perso una decina di voti. Perché? Tutti a favore dei 5 Stelle. Perché? Ah, Grillo pure tu allora. Sì, ma per un fatto, oggi voterei Grillo, perché quelle che erano le tematiche della sinistra, no? La giustizia sociale, sì, eccetera. Certo. Sono interpretate, le ha fatte proprio Grillo. Sì, soprattutto sul fatto della trasparenza, della giustizia. Ma la cosa più interessante, ragazzi, non è questo, questa è solo la presentazione di questo tizio meraviglioso, un tassista, gli devo anche dei quattrini, credo. Meraviglioso, 13. Perché mi ha fatto pagare. No, 13,40 euro gli devo dare i soldi. Beh, ci mettiamo d'accordo. È un altro, la sua teoria, c'è tutto, aveva in mano sul sedile davanti un libro, no? Un libro di medicina alternativa. Di medicina alternativa, perché dopo tanti anni ha detto: si è rotti i coglioni di mangiare le solite cose, dunque mangia in maniera diversa. Dice: la salute è migliorata e tutto, ma soprattutto ancora mi tira, così ha detto, mi tira un sacco. Gli dico: ma che prendi? Viagra, Cialis? No. Ma un'altra cosa, ho scoperto un trucco. Dunque, qui abbiamo la grande rivoluzione che distruggerà il mercato del Cialis, del Viagra, eccetera, eccetera. Chiamatemi Pietro se risponde. Chiamatemi Pietro. Pietro, rispondi, Pietro! Pietro, rispondi, dai! Pietro, rispondi! Sta lavorando, Parenzo, sta lavorando. Segreteria telefonica. Adesso lo richiamiamo. Teoria fantastica, ragazzi. Se avete bisogno di un aiutino, niente Cialis, niente Viagra. C'è una teoria rivoluzionaria. Me l'ha spiegato, era convinto veramente, io ci credo, Già lo dovevo dire ieri, poi non l'abbiamo trovato, ma stasera latita. Stefano Siracusa, vai. Salve ragazzi. Vai, dimmi. Niente, io direi che il problema è semplicemente l'inciviltà, è quello che dicevate voi. Il problema è che la mamma dei cretini è sempre incinta, no? O Islam o cristianesimo, quello che è. E poi rispetto invece a quello che sentivo da un altro radio, sentivo appunto il discorso della violenza, di sparare in testa a qualcuno. Ecco, sì. Far passare queste. No, questi quello messaggi, era un politico. No, non era un ascoltatore, sì, qualunque, che va benissimo. Era però un politico, sì, con un ruolo istituzionale, diciamo. Vabbè, allora? È un po' sbagliato, voglio dire. Un po'. Non c'è nessun errore. Quel tizio là, che si chiama Berlato, vuole che sia cambiata la legge sulla difesa personale. Giusto, sbagliato, non ci importa qui, non è quello il punto. Sì. E ha detto semplicemente che lui ha una beretta e che la userebbe in casa se venisse un ladro. Sparerebbe in faccia o nel petto a un ladro armato per ammazzarlo, punto e basta. Non mi sembra una cosa così strana, è una cosa assolutamente normale. Poi uno si può stupire, ma a me piace più un politico che parla in maniera esplicita piuttosto che uno che parla nascondendosi, punto e basta. Chiaro? Fermi tutti. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. La zanzara. Leggo con piacere che in un'intervista a Repubblica Christian De Sica, un'intervista in cui si parla della scelta di De Sica di non fare la trasmissione tale e quale sulla Rai, ma di scegliere Striscia la Notizia da lunedì. Lui dice: non ho scelto Striscia la Notizia per soldi, eccetera, eccetera, ma di questo ci importa, ma non tantissimo. Lo stesso De Sica viene interpellato da Silvia Fumarola, che è una giornalista di Repubblica che si occupa di solito di spettacoli, sconosciuta ai più, ma questo è normale, la quale fa un esempio per dire, beh, insomma, in Italia non c'è cultura, in Italia nessuno sa niente, c'è una mancanza di una povertà culturale pazzesca, e dice: la memoria ha un valore. Giuseppe Cruciani della Zanzara non sapeva cosa fosse Umberto D. Non il sapeva... film Umberto D. Il film Umberto D. Te lo non ricordi? Lo conosci? Ma, te lo... certo. Ma non ti ricordi un cazzo? Zavattini, certo. Ma non ti ricordi? Ma non Umberto D. Non ti ricordi questo momento della Zanzara? C'era Squitieri? No, forse non c'era. Risenti, c'eri. Risentiamo. Se stiamo a guardare il botteghino, se stiamo a guardare quanto incassa un film, Umberto D, che è un capolavoro assoluto della cultura mondiale, non del cinema, ha incassato 2000 lire perché è stato 3 giorni al Balberini. Mi scusi l'ignoranza, Squitieri, veramente mi scusi dell'ignoranza, ma che è Umberto D? Umberto D è un capolavoro di Vittorio De Sica che ha vinto il premio Oscar, tra l'altro. Non lo sapevo, mi perdono l'ignoranza. Allora, Io le perdono, ma è gravissimo. Umberto D è un capolavoro della nostra cultura. Vabbè, andò così. Poi... beh, sì, c'ha ragione. Però. Per... io non me lo ricordavo. Non so se ha ragione, la discussione non è questa. Scritto adesso da Cesare Zavattini. Sì, sì, va bene. In quel momento non me lo ricordavo, non lo sapevo. Non mi interessa, faccio un altro mestiere. Ma non è quello. Non è quello. Non voglio difendermi. Non c'è nulla da cui devo difendermi. Non c'è niente. Si sviluppò una discussione tra. De Sica, cosa ha detto? Che sei un ignorante. No, De Sica ha risposto, ha detto: davvero, che ignoranza, però non mi stupisce, ma va benissimo, per carità, ma può rispondere quello che vuole Christian De Sica, per me ha la stessa altezza del padre, se non addirittura meglio del padre Christian De Sica, figuriamoci. Il livello culturale è molto basso, dice Christian De Sica. Tirate giù i pantaloni. Maria Vergine, cosa che vuol fare? Fammi vedere la chiappa con l'uccello tatuato. Oh, ma che vuoi le chiappe mie, Smutandate! No! Fammi vedere l'uccello! Ancora il livello culturale. No, ma si vede un'altra cosa. No, per me questo qua è altissimo, tra l'altro. Lui è il suo cinema. Il livello culturale è molto basso, dice Christian De Sica. Senatore, ma che fa? Fammi tocca sto marmo di Carrara. Senti che obbelisco egizio. Sì, lo sento, porcellone. Modestamente. Perché non ce ne andiamo a bere una cosa a casa tua? No, no, non è possibile. Sono ospite da 2 amiche. Meglio, fammi il mucchio selvaggio. Ma è impazzito. Sto scherzando. E poi che fai, me ne ancora del lei? È che sono timida. Timida, cara? Con sta faccia da zoccola? Il livello culturale è molto basso, dice Christian De Sica. Sono tanto solo. Ho bisogno d'affetto, di una voce amica, di una compagna per la vita. Isidre, fammi una pompa. Questa è stupenda, Questa era SPQ. Ma è meraviglioso. Io per me... mi conosco solo dalla voce. Sì, ma è meraviglioso. Per me è cultura non alta, altissima cultura, altissima. Però, amico mio, però. No, però. Ma lui si riferisce alla cultura del cinema, al fatto che a quello non hai. No, sai, ma io non ho cultura cinematografica, lo ammetto, per cui non sapere che cos'è Umberto D non mi rompete i coglioni, non lo sapevo e chi se ne frega, l'ho appreso grazie alla radio, grazie a Squitieri, grazie a De Sica, grazie a quello che volete, punto e basta. Non è che è l'esempio del fatto che in Italia non c'è cultura, ma vaffanculo, va. dai. Se io chiedo a De Sica o a la Fumarola chi è, che non so, cioè faccio una domanda, che, una cosa che io so, che reputo fondamentale. Ma no, perché quello, dai, è considerato uno dei pilastri della storia del cinema, ma non solo, perché c'era la sceneggiatura, vabbè, di Zavattini, allora, quello è il motivo. Allora? Ma niente, allora. E allora non saperlo che cosa significa. Che in generale significa? In Italia sia un livello culturale piuttosto basso. Ma non saperlo basso cosa significa. È vero. Non saperlo vero cosa significa. Non è vero che in Italia il livello culturale ma è basso. Ma di che dici? La gente non legge i giornali. Dici? È bassissimo. Ma meglio che non legge i giornali. La gente non legge i giornali, si comprano pochi libri. Beh, insomma, vabbè, è un livello culturale basso. Monia, non c'è ombra di dubbio. Parenzo, due punti. Il ma livello culturale io italiano ma è non lo basso. Dico, ma non lo ma dico che cazzo di, ma dici io delle cazzate pazzesche. Ma a Milano. Poi in ti Italia, stupisci sì, se persone come Buonanno finiscono al Parlamento europeo. Rispetto a tanti altri paesi. Poi uno si stupisce, è talmente basso che persone come Buonanno finiscono arrivato, in Europa. È arrivato, specchio dell'Italia. È arrivato dell'Italia, lo snob, diciamo. Parenzo, che dici il livello culturale dell'Italia è basso. Ma è un dato di fatto. È un dato di fatto. Monia, vai. Monia. È un dato è di altissimo, fatto. No, basso, altissimo. È altissimo. Sì, secondo me rispetto ad altri paesi è altissimo. Sì, Monia, Milano, Monia. Pronto? Vai. Pronto? Buonasera. Rispetto ad altri paesi è altissimo, altissimo. Sì, secondo tutte le statistiche. Saudita, secondo tutte le statistiche, non ti preoccupare. Monia, Milano, altissimo. Pronto? Non ho detto che siamo bene, però è così, Monia. Pronto? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera. Sono Monia da Milano, sono musulmana. Questo l'abbiamo capito, sì. Sono marocchina e volevo rispondere in merito, sì, non tanto a Bonanno, perché mi sembra che, cioè, non voglio neanche perdere tempo a rispondere a lui perché sul livello parla di lui. Sì, sì, sì. Mi preoccupa di più che il signor Feltri abbia scritto un libro sull'Islam, perché la sua teoria, che ha detto quella di dividere il pellegrinaggio in 10 volte, matematicamente è vero, però lui non sa che in un anno si fa un solo pellegrinaggio. Beh, sì, certo. È nel periodo proprio questo, sì, qua. Dunque, quindi, non si può diluire, come dice Feltri, no? Non si può diluire. Non si può diluire. E sarebbe intimo... come dire, facciamo il Natale quattro volte. Dice, no, guardi che il Natale è una volta sola. Per evitare, cioè, per evitare i morti, 3.000 morti si potrebbe anche fare, diciamo. Comunque, assolutamente sì. Allora, devo dirgli, in questi due giorni avete toccato vari punti. Vabbè, dai, dimmene uno, me... che è tardi. Dai. Ok, allora, il primo è che intanto Cruciani, quando parli, cerca di parlare in percentuale, perché bisogna calcolare in percentuale quanti sono i morti. Sono 800 su 3 milioni. Ma sono 2 milioni? Ma 800 su 2 milioni? Ma una cosa piccolina. No, assolutamente no. Non ho detto e allora questo. Che vuol dire? Non è che dove ci sono 2 milioni di persone è una barbarie. Che... devi dire tu che sei musulmane. Non... è una barbarie la morte di 800 persone. Non deve, e allora, non deve succedere. Ma succede sempre, però? Succede sempre. Non è soltanto da dire. Ma perché poi che... uno deve andare a fare quei 7 giri là, la questo purificazione? Questo perché? La purificazione, i 7 giri. Ma perché? Perché la religione prevede quello. Ma tutte le male religioni sono una cosa tremenda, tremenda, terribile, terribile. Monia, vabbè, allora? Ma il problema non è soltanto da dire che... portano problemi, indicare... continui problemi, no, la donna, no, per la donna, per tutto, per tutto, problemi sul sesso, problemi enormi. Io sono una donna ingegnere, indipendente, che mi vesto come voglio, faccio come un'eccezione. Voglio, ho la libertà. Un'eccezione, perché sei in Italia, perché sei in Italia, perché sei in Italia, perché sei in Italia. Vabbè, dai, allora la maggior parte delle persone parlano dell'Islam senza conoscerlo, e purtroppo la maggior parte di queste persone sono in giro nella televisione, nei... Vabbè, Monia, che volevi dire in più? Hai letto mai il Corano? Allora, quello che volevo dire è che non bisogna parlare o demonizzare una religione. Va bene, d'accordo, poi un popolo. Quello che è successo nella Mecca è dovuto a tante cose, all'organizzazione, poi? All'indisciplina. Ogni anno. Poi? No. All'indisciplina. È vero che non deve succedere, è vero che deve essere poi organizzata. Tu devi sapere che ci sono 22 miliardi, sì, di musulmani al mondo. Va bene, ragazzi, però questo non è un simposio sull'Islam. Concludiamo questa cosa. Di rispondere a vari punti. Ma non c'è punto, qui non è porta a porta. Cioè, capisci che non è porta a porta. Ciao, ciao, ciao, ciao, amica mia, ti abbraccio. Ti abbraccio, ti abbraccio. Sì, ma non è porta a porta. Non è porta a porta, ciao. Oh, divertente. divertiamoci un attimo, dai, su, rilassiamoci un attimo, basta parlare di questa cosa. Lison, per fortuna è venerdì, guarda, per fortuna è venerdì. E tra l'altro è il giorno sacro. Sì, vabbè, ma per me è un giorno qualunque. È un giorno qualunque, il venerdì è un giorno qualunque per me. Tutti i giorni sono uguali, identici. Beh, non è chiaro? Possibile, per me tutti i giorni uguali. Sono uguali. Il sabato e la domenica ci si riposa. Per caso, il sabato e la domenica, potrebbe essere anche il lunedì o il martedì, non è molto diverso. Allora, voglio dire una cosa, riprende la nostra grande inchiesta sui cognomi, Parenzo, la nostra grandissima inchiesta sui cognomi. Ci sono alcuni cognomi in Italia che, diciamo la verità, sono un vero e proprio scandalo, sono uno scandalo. Cioè, perché uno si deve chiamare, per esempio, Ficarotta? Cioè, c'è gente che si chiama Ficarotta, tutto attaccato, non Ficarotta, però Ficarotta si legge comunque così. Cioè, se tu ti chiamassi Ficarotta, cosa faresti? Diciamola tutta. Ma cercheresti di cambiarlo a tutti i costi, dai. Molto probabilmente. Costi quel che costi, cercheresti di cambiarlo. Bene, ci sono funzionari del comune, non mi ricordo di quale comune, di diversi comuni italiani, che cercano di combattere questo scempio e dicono: amici miei, vi diamo i soldi, cambiate cognome. Pronto? Sì, Ficarotta? Sì, da che? Sì, chiamo dal comune, signora. Il suo cognome rientra tra quelli che possono generare evidenti imbarazzi e per una questione di decoro e di immagine il comune ha deciso di cambiarli. La chiamo per questo motivo. Mi sembra una cosa assurda che dobbiamo cambiare il cognome. Il comune stanzia anche dei soldi per questo cambiamento di cognome, 1.000 euro per l'esattezza. Ma vado dal comune e parlo col comune, va bene. Quindi lei è disponibile in cambio di 1.000 euro? Non lo so, devo parlare con mio figlio. Vado dal comune, se mi danno 1.000 euro ci cambiamo il cognome. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Signor Ficarotta? Sì. Lei Ficarotta sta a Ficarazzi, giusto? Sì, sì. Per una questione di immagine, di decoro, il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi giudicati sconvenienti, come purtroppo il suo. Non si vergogna un po' del cognome che porta? No, qua a Palermo no. Magari quando ho fatto il militare sì. Ficarotta, tutte queste cose quando ho militare. Però alla fine ci sappiamo difendere, tutto qua. Pronto? Sì, buonasera, parlo con l'ingegner Ficarotta. Parla. Sì, io chiamo dal comune. Il comune ritiene che certi cognomi andrebbero cambiati perché possono generare evidenti imbarazzi e tra questo il suo, la chiamo per questo motivo. Scusi, il comune che interesse ha sulla questione, una questione così personale come quella mia? Mi darà atto che insomma il suo cognome può generare qualche... No, io non do atto di niente, è una valutazione mia. Mi pare che il comune non sia legittimato a farmi una proposta simile. Lei mi ha chiamato con un atteggiamento un po' di fretta. Ma ingegner Ficarotta, lei lo sa quante Ficarotte devo farmi io ogni giorno? Io non mi diverto. Non mi diverto molto a farle. Le faccio perché il mio lavoro, capisce? Non vedi il motivo di cambiare per niente il mio cognome. Nemmeno di fronte a Ficarotta la gente si arrende, Ma che orgoglioso della sua. Ha capito, ragazzi, Ficarotta. Ma no, perché mica è colpa sua, della sua tribù. È capitato che uno, per motivi vari, genealogici, eccetera, eccetera, si chiama Ficarotta e cambia storia. Quello è interessante da risalire. Quello è curioso. Luigi Bologna, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Mi chiamo Luigi Ficarotta. Tanto. Non credo proprio. Vai. Niente, sono incazzatissimo. Questa gente parla più forte, se no non ti cosa sento. Cosa viene a fare questa gente qua? Quale gente? In Europa, cosa viene a fare? Sono ingegneri di 22 miliardi di musulmani che siamo in 7 miliardi. Cosa cazzo dice? Cos'è che dice? Fermo. 22 miliardi, vai a fare l'ingegnere a casa tua, te e tutti i musulmani come te. Ma hai capito? A chi ti stai rivolgendo? Io non li voglio. Ok, vabbè. Non li voglio. Perché non vuoi i musulmani? Non li voglio quella gente lì. Cosa me ne faccio io? Cosa mi servono a me i musulmani? Avete il petrolio, vendete il petrolio, però state a casa vostra. Non me ne frega un cazzo a me. Se muoiono 1.000 o 2.000, a me non me ne frega. Troppo pochi. Troppo pochi, no, però allora Luigi interpreta. Buon anno numero uno, buon anno presidente del mondo, hai capito come? O il transista, cioè proprio No, però Luigi, dovresti... Berlino era un bambino, Berlino. Chi? Ma aspetta, dove stai parlando, Luigi? Cerca di togliere il viva voce o qualcosa del genere. No, ho il telefono in mano. Non si capisce però bene. Allora, Luigi, ho tolto sì, voce. Allora, sono in montagna. Hai capito bene, Parenzo, quello che ha detto? Abbastanza chiaro, mi pare. E che cosa è chiaro? È chiara la follia di questa persona, va bene, ma insomma, ma non è che si può rispondere, non è, è un ragionamento. No, Luigi, voglio capire, cioè, sei stato contento quando hai saputo di quelle persone che sono morte? Eri contento? No, me ne frega niente. Non te ne frega un cazzo. Devo dire che è un pensiero abbastanza comune, diffuso, Parenzo, questo qua, che uno... può essere diffuso. Non è detto che se è diffuso sia giusto, però. No. Cioè, non è detto che una cosa diffusa sia giusta. Allora? Dovrebbe preoccuparlo che milioni di persone hanno quella fede e se vengono trattati come vengono trattati, secondo me c'è da preoccuparsi. Però, per carità, allora, milioni di persone, milioni di fedeli. Allora, milioni. Luigi, non ho capito. Li vuoi tutti fuori dall'Italia? Io, se potessi fioccare le dita... E non ce n'è più neanche uno, sì. Neanche uno, lo farei subito, via tutti i musulmani. Adesso. Ma potessi farlo, sì. Sia sul pulsante, non ce n'è neanche uno. Capito come? La mia città, Bologna, sì. Negli anni 70 era un su. Hai capito? Adesso io in centro non vado da solo. Non va da solo, cioè. Va bene, Luigi. Non va in centro. Ciao, possiamo chiudere. Ci sentiamo lunedì. Ciao, 18:30. Oh, ma vattene a zappa la sera. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. È un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.